edizione. Ancora un buon giovedì, ancora ben svegliati da Anna Migliorati, dalla redazione di Radio 24, prima edizione per raccontarvi subito le ultime notizie della notte. Allora, la prima notizia che vi diamo è appena battuta dalle agenzie proprio in questi istanti, un'autobomba in Dagestan, un poliziotto è morto, altre 61 persone sono rimaste ferite per l'esplosione in rapida successione di due autobombe nella capitale della instabile Repubblica Caucasica del Dagestan. Ma ormai come abitudine cominciamo però la mattinata con uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani per vedere quelli che sono i temi sui giornali di oggi. Aperture tutte dedicate alle questioni politiche, ne abbiamo parlato anche poco fa in GR24, si attende una giornata importante, ieri sera ci sono stati importanti vertici e allora il Corriere della Sera, vado avanti, parlerò al Paese, Berlusconi al Corriere, nuova legge elettorale, potere ai cittadini. Napolitano chiede al Premier se il governo ha ancora i numeri e oggi il voto sul deputato PDL milanese. Bossi, no all'arresto, non voglio far cadere Silvio. La Repubblica, Bossi, salverò Berlusconi, oggi il voto segreto sul milanese, il Premier al Quirinale. Il Messaggero, stesso taglio, Berlusconi vado avanti, ma la crisi si aggrava, scrive il Messaggero. La Stampa, milanese, voto ad alta tensione, il quotidiano di Torino punta già gli occhi sulla giornata di oggi. Il Sole 24 Ore, Berlusconi e Napolitano, il governo va avanti, il Colle subito riforme, ma il titolo di apertura che campeggia sul Sole 24 Ore in realtà è un altro, Fondo Monetario Internazionale, banche europee da rafforzare, la crisi pesa per 300 miliardi, scrive il Sole 24 Ore, un'immagine in prima pagina, Atene taglia pensioni e stipendi, altre misure di austerità, mobilità per 30.000 statali, l'avevamo accennato anche noi ieri. Questa la notizia in primo piano. Ci sono naturalmente anche altre notizie. Torniamo sul Corriere della Sera che sceglie il centro pagina per parlare delle banche italiane. Standard & Poor's boccia 7 banche italiane. Qui l'immagine invece in prima pagina è un'altra e riguarda il dibattito all'ONU sul possibile nuovo Stato palestinese. Obama e i palestinesi, scrive il Corriere della Sera, niente scorciatoie. La Repubblica, un'altra immagine ancora diversa invece che ci porta a Lampedusa, un giorno di guerriglia Lampedusa, caccia ai clandestini dopo la rivolta, scrive la Repubblica, altro tema di cui anche noi ieri mattina abbiamo ampiamente parlato. Altra notizia, centropagina del Messaggero, TBC al Gemelli, 7 indagati, l'infermiera mai visitata, accuse di epidemia colposa e lesioni, l'ospedale dice siamo pronti a collaborare. La Gazzetta dello Sport, abbiamo detto nella sera, nella notte ci sono state notizie sportive importanti, allora la Gazzetta dello Sport, c'è un'immagine di Ranieri alquanto stilizzata, Ranieri, l'Inter è l'antimu, il nuovo domatore, accordo biennale, oggi già il primo allenamento, il cambio sulla panchina dell'Inter e poi Juve Milan, punto e basta, Serie A, le due big non vanno oltre il pareggio, così la Gazzetta dello Sport. Anche oggi velocemente uno sguardo ai siti internazionali che almeno per oggi non parlano di noi, Der Spiegel in Germania, crisi del debito pubblico, così apre il sito questa mattina, i sindacati indicano uno sciopero generale contro l'austerità, la notizia l'abbiamo vista anche sui quotidiani italiani, Financial Times, la Fed lancia 400 miliardi di dollari nella twist operation per smuovere il rallentamento dell'economia americana, il Times, sul Times, sul sito del Times campeggia questa mattina invece un'apertura di un'immagine di un gruppo musicale, sono i REM, sono divisi e si sentono bene, dei Feel Fine, scrive il Times questa mattina, il gruppo musicale ha annunciato lo scioglimento ieri online. E poi il New York Times, andiamo invece negli Stati Uniti, la gente ha reagito alla notizia che l'esecuzione avrebbe continuato, Troy Davis eseguì la condanna a morte per Troy Davis eseguita questa mattina, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato l'accordo dopo 4 ore e dunque c'è molta gente davanti al carcere dove è stata eseguita la condanna a morte. Notizie sul sito del New York Times che vengono continuamente aggiornate perché, come vi abbiamo detto anche noi, sono proprio di questa mattina, ma allora proprio di questo anche noi parliamo e cominciamo a raccontarvi le ultime ore. E proprio per raccontarci quello che sta accadendo negli Stati Uniti, è già con me Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno. Dunque, la notizia è questa. Cosa è successo? Allora, come dicevi tu, Troy Davis è morto, è stato condannato a morte. Era nato nel 1968 in Georgia, aveva dunque 43 anni, era afroamericano, era stato condannato a morte per l'omicidio di un poliziotto nell'89. Sul caso Davis c'era stato un sollevamento molto forte, anzi, come titolava lo stesso New York Times, l'America si era divisa, spaccata, ovviamente su chi era favorevole alla pena di morte e chi contrario, ma soprattutto l'America era divisa sulla dinamica dell'assassinio del poliziotto Mark McPhail e quindi divisa tra innocenza di Davis e sua colpevolezza. Allora, prima vi raccontiamo cosa accadde quella notte dell'89 a Savannah. Un agente di polizia, Mark McPhail, seppur fuori servizio, era intervenuto di notte in difesa di un senzatetto che era finito al centro degli scherzi violenti di un gruppo di teppisti. Il poliziotto fu ucciso con due colpi sparati al viso e al cuore. All'epoca Davis aveva 19 anni e fu indicato come colui che sparò. Però in questa storia non tutto fila liscio. A guidare una campagna per bloccare l'esecuzione di Davis è stato il New York Times, del quale vi leggiamo un estratto di un articolo nel quale il quotidiano spiega il perché non andava ucciso Davis. I gravi errori commessi nel caso Davis sono numerosi, dice il quotidiano. La polizia di Savannah, cioè la città in cui è avvenuto l'omicidio, ha inquinato i ricordi di quattro testimoni oculari ricostruendo la dinamica dell'omicidio davanti a loro, cosicché le loro opinioni individuali si sono trasformate in un punto di vista unico. Questo spiega il Times. 7 dei 9 testimoni hanno ritrattato dopo il processo e 6 hanno detto che la polizia li aveva spinti a identificare Davis come il colpevole con minacce. Per questo, solo ieri, la decisione di ucciderlo è stata rinviata per concedere alla Corte Suprema americana il tempo per esaminare un ricorso presentato in extremis dalla difesa. Gli avvocati di Davis praticamente hanno tentato di bloccare l'esecuzione all'ultimo minuto chiamando in causa la falsa testimonianza, ma questo, come abbiamo visto, non è servito a nulla. Poco fa l'epilogo che vi abbiamo raccontato, cioè la Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di sospensione della condanna. Non sono servite a nulla neppure le 630.000 lettere che chiedevano di graziare Davis, e tra coloro che hanno chiesto di non giustiziarlo c'è il presidente Jimmy Carter, 51 membri del Congresso, il Papa, il premio Nobel per la pace Desmond Tutu e l'ex direttore dell'FBI William Sessions, che è generalmente a favore della pena di morte. Davis dunque era diventato il simbolo della lotta alla pena di morte. Alcuni, tra cui, come vi dicevamo, il New York Times, paventano anche l'ipotesi che dalla morte di Davis nasceranno proteste molto forti, soprattutto della comunità afroamericana. Intanto questa notte, come dicevi anche tu Anna, centinaia di persone si sono trovate davanti al carcere, ma anche davanti alla Casa Bianca. Troy Davis invece ha passato le sue ultime ore di vita in carcere, ha dato l'ultimo saluto alla famiglia, ha consumato il suo ultimo pasto e registrato le sue ultime dichiarazioni, quindi gli è stato dato del sedativo e infine ha ricevuto l'iniezione letale. E grazie a Cristina Carpinelli. Grazie, queste le notizie delle ultime ore. Continueremo a parlare nel corso della giornata. Questo è stato. E questa mattina davvero lo stacco di prima edizione ci aiuta a voltare pagina, perché nella notte si accavallano notizie davvero molto diverse. Questo è successo negli Stati Uniti, nella serata italiana è successo altro e parliamo invece di calcio. Dario Ceccarelli. Sì, l'argomento è sicuramente più leggero, anche se poi per gli interisti sono sempre notizie così, in un certo senso drammatiche. Comunque in realtà c'è stato il famoso passaggio di consegne, cioè Gasperini è stato salutato ieri, salutato, lo dico ironicamente, nel senso che gli è stato dato il ben servito. Ovviamente dopo una serie di risultati così negativi non poteva essere che così. Ed è stato ufficializzato il nuovo... C'è già il prossimo, diciamo nella notte avanti, si è parlato più che altro del prossimo. Avanti un altro, avanti un altro, e tutti si fanno gli scongiuri perché ovviamente... La crisi dell'Inter non è solo... Non è una panchina facile, non è una così. Esatto. La Gazzetta dello Sport questa mattina definisce Ranieri l'antimu, sei d'accordo? Sì, abbastanza, perché intanto è un uomo come proprio comportamenti, diciamo, più moderato, è uno che difficilmente fa così certe sceneggiate alla Mourinho, è uno che è così, è un allenatore che è stato sempre preso dalle squadre per... rimettere a posto i cocci in genere, no? Perché è un uomo di esperienza, un uomo che così ha con un carattere che dà tranquillità, e quindi viene, è stato un po' pensato proprio per questo, per ridare un po' serenità. E proprio questa notte ha svestito dei panni e ne ha rivestiti di altri, è passato dal commentare alla panchina, Dario. Sì, lui era commentatore della Domenica Sportiva, per cui diciamo che anche lì ha salutato con un'ultima dichiarazione. E niente, lui ha detto che Gasperini voleva portare la sua idea, e io, dice, cercherò di riportare questa squadra a giocare come sapeva l'Inter. Cioè, in realtà lui vuole non stravolgere una squadra che aveva una sua fisionomia, e quindi ritornerà così al tradizionale Schneider dietro alle due punte, cercando di dare un po' di continuità a una squadra che improvvisamente aveva cambiato rotta. Non sarà facile, perché insomma, l'Inter, come dicevamo prima, non è solo una questione di allenatori, c'è dietro un progetto che comincia a avere i capelli grigi, perché è da parecchio tempo che non si fanno cambi importanti tra i giocatori, e Toi è andato via, insomma c'è bisogno di una rinfrescata. Grazie allora a Dario Ceccarelli. Prima edizione. Ed è il momento di Italia in controluce, che oggi ci porta a Bari. Italia in controluce. È la mattina del 22 settembre, vi parla Daniele Biacchesi in questa pillola di Italia in controluce. Escort e appalti, sesso in cambio di affari, l'inchiesta di Bari che coinvolge il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e scuote la politica, si poggia su quest'ipotesi della Procura della Repubblica Pugliese. È un fascicolo ad hoc, è stato aperto proprio sulla presunta mediazione di Berlusconi a favore di Giampaolo Tarantini per appalti con Finmeccanica. Un'inchiesta che solleva il problema della reputazione centrale per l'imprenditoria, riflette così Alessandro Laterza della storica casa editrice barese al microfono di Raffaella Calandra. La storia anche recente del nostro paese è attraversata da una molteplicità di scandali e questioni di questo tipo. Questo è particolarmente clamoroso perché vede la centralità della figura del Presidente del Consiglio. È vissuto molto male questa curiosa viraggio della reputazione della città, che da essere considerata da sempre una città molto vivace, molto attiva, improvvisamente si trova invece in questa posizione un po' imbarazzante di essere identificata come luogo degli scandali, e questo è un problema serio. Abbiamo molteplici tracce ormai che questo tipo di costume o malcostume è molto diffuso a tutti i livelli e in tutto il paese. Ma secondo lei il timore in questo momento di Bari è di essere marchiata appunto come una novella Sodoma? Bari deve in qualche maniera sostenere la propria reputazione. Queste macchie che appunto poi ingenerano un sospetto indifferente sono un serio problema, quindi adesso lo sforzo deve essere quello di chiarire le cose e poi chiarire quello che noi siamo, e non siamo certo Tarantini e tutta la corte celeste che si è mossa per Palazzo Grazioni, questo è poco ma sicuro. L'immagine che i racconti di questa inchiesta sembrano un po' proiettare è quella di una ansia di fare velocemente carriera da parte di nuovi imprenditori attraverso scorciatoie. Chiunque sviluppi delle attività facendo leva non sulla propria capacità propositiva e competitiva, ma comprandosi dei favori, non è un imprenditore. C'è chi vede in questo forme nuove di corruzione. Sono oggettivamente forme nuove di corruzione. Per la verità, quello che ci racconta questo tipo di vicenda è una forma di degenerazione della vita politica. Ormai l'unica dimensione in cui la politica si esprime in maniera significativa è quella dell'intermediazione di risorse. Questo non è che, ahimè, uno dei mille episodi che ci raccontano questa storia, che è poi il motivo per cui il nostro sistema paese poi si presenta debole. Capisco che passare da Tarantini alla BCE può sembrare un salto azzardato, ma non lo è affatto. Non c'è più una discussione, per esempio, per un progetto di sviluppo, c'è solo un commercio e uno scambio di favori. Su questo credo che il nostro allarme, partendo se vogliamo da questo caso barese, dovrebbe essere molto più profondo e molto più forte. Era la prima edizione di Italia in controluce, torniamo oggi 13:30 a Radio 24. E ancora una buona giornata anche da Anna Migliorati. Le 6:39 minuti. Ancora parliamo di politica, ancora parliamo del ruolo della politica. Oggi alla Camera si vota sul caso milanese. La Lega che farà? Che succederà nel voto alla Camera? Io saluto i miei ospiti di questa mattina, il vicepresidente vicario della Lega Nord a Montecitorio, Luciano Dussin. Buongiorno. Buongiorno a voi. E saluto anche il direttore di Affari Italiani, Angelo Perrino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dussin, che farete oggi? Si vota su Milanese o su Berlusconi? Ma oggi si vota su Milanese, che dopo ci siano delle ripercussioni nell'intera vicenda che si allargano, questo mi sembra comunque evidente e coinvolgente. La nostra posizione è chiara ed è ufficiale. I nostri responsabili hanno valutato la richiesta per giungere all'arresto preventivo, che ricordiamo vuol dire arrestare uno prima di fargli il processo, e non ci sono le condizioni secondo noi per avallare tale richiesta, perché per arrestare uno prima del processo bisogna che ci sia possibilità di fuga, ma questo come fugge lo conoscono tutti, non è un deputato del Parlamento italiano, quindi quella non c'è, non c'è neanche la possibilità di inquinare le prove, perché abusivamente o no comunque ne hanno vagoni di intercettazioni, questo lo leggiamo quotidianamente sui giornali. Quindi, Dussin, però se non fosse milanese, se non fossi milanese, se fossi io, che sono una qualunque cittadina, a decidere se serve o no l'arresto prima sarebbero dei giudici. Questo sì, però ci sono anche delle tutele costituzionali a tal riguardo, se no già i giudici hanno dimostrato di essere anche capaci, non tutti per fortuna nostra, di debordare dalle loro competenze. Qua ci sono dei passaggi costituzionali chiari, chiedono, noi valutiamo e riteniamo che sia il caso di non arrivare ad arrestarlo prima e che inizino prima possibile il processo a questa persona. Insomma, lei dice è un parlamentare, è un parlamentare, ha diritto che anche i suoi colleghi valutino, e quindi esatto, noi abbiamo valutato così? Esatto. Ma il voto però sarà segreto, sarà a scrutinio elettronico, sì. Sarà unita la Lega? Sì, penso di sì, perché abbiamo fatto delle valutazioni chiare, dopo sai, anche il voto segreto è la massima espressione della democrazia. E quindi io penso che il nostro gruppo si schiererà come abbiamo deciso di fare. Dopo, come è successo anche in altre circostanze, sul voto segreto si possono aprire anche dei giochi politici, cioè votare in un modo e attribuire le responsabilità a qualcun altro. Questo lei è convinto che tutti i suoi colleghi della Lega non vogliano, senza se e senza ma, che Milanese venga giudicato direttamente dai giudici, come avete detto ieri sera dopo il vertice? Io penso di sì, dopo sa, nel voto segreto può succedere che anche quelli del PD o alcuni del PD possano votare contro l'arresto, dipende, però io francamente ho visto un clima, soprattutto in questa circostanza, favorevole affinché le cose vadano come devono andare, nel senso che l'uomo sarà processato, che venga arrestato prima o no, ci auguriamo che lo processino in fretta, se ha sbagliato pagherà come è giusto che paghi. Arrivare a metterlo in galera prima, senza motivazioni, vuol dire condannarlo prima del processo. Però ripeto, un qualunque cittadino avrebbe un iter diverso. Questo sì, però cambiamo la Costituzione, ma così è anche negli altri paesi, cioè prima di arrivare ad arrestare un parlamentare ci sono delle ulteriori verifiche da fare. Avete discusso molto prima di arrivare a questa posizione o eravate tutti d'accordo? No, eravamo d'accordo, anche perché era tempo che si parla di questa cosa, ognuno ha potuto valutare, leggere, sentire anche i nostri rappresentanti nella commissione per le autorizzazioni a procedere, abbiamo ritenuto che arrestarlo prima del processo era una forzatura che non va bene. Ringrazio allora Luciano Dussin, vice capogruppo di Montecitorio, perché sono le 6:43 minuti, ma so che ha fretta e a molti capita anche a quest'ora del mattino. Bravo. Grazie, bene, per essere stato mille con noi. Buongiorno. Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, ha sentito, che ne pensa? Io penso che in effetti la Lega non dovrebbe tradire la disciplina decisa con Bossi, non credo che abbia interesse in questo momento a provocare l'incidente, sebbene, come abbiamo scritto su Affari Italiani, cogliendo un retroscena di Montecitorio, si stiano facendo ponti d'oro a Tremonti perché possa accettare il ruolo di premier al posto di Berlusconi, in tal caso arriverebbero voti inattesi anche da parte di una parte dell'opposizione, ma la mia sensazione è che anche Maroni lo diceva anche prima Dussini, il voto segreto è per gli uni e per gli altri, sì, un'incognita. Infatti lui lo definiva la forma più alta di democrazia, invece secondo me questa segretezza inquina molto l'andamento lineare delle cose. In fin dei conti non ci si prende la responsabilità delle proprie decisioni in qualche modo. Ti ricordi, nella Prima Repubblica si parlava dei franchi tiratori, i governi cadevano al buio e non si capiva mai le ragioni di una conflittualità che portava al record di un governo ogni 8 mesi. Questo è il dato. Cioè, è più facile un voto segreto dicendo no che non presentarsi di fronte ai propri elettori e dire io ho votato no. Sì, favorisce le operazioni clandestine. Ci ho detto, se escludiamo la Lega, si dice che la pugnalata a Berlusconi può arrivare dall'interno del PDL. E qui c'è una teoria che mi è stata raccontata dall'area dei responsabili, in via riservata mi hanno detto che in effetti l'arresto di Milanese, se indebolisce Tremonti, diventa stabilizzante. Questo è il paradosso delle cose italiane, perché ridimensiona Tremonti e di questo sarebbero lieti molti del PDL. E in un certo senso dà anche credito alle assicurazioni che almeno fino a ieri sera ha dato Berlusconi al Quirinale. Prima edizione. È il giorno del voto alla Camera sull'arresto di Milanese. Che succederà? Angelo Perrino, direttore Affari Italiani, ancora con noi. Dicevamo prima, è vero la Lega, è vero l'opposizione, la vera incognita è il PDL. Sì, appunto. Oggi Berlusconi ha convocato subito dopo il voto un vertice di maggioranza proprio per fare il punto e affrontare gli eventuali scenari che si apriranno. Si può prevedere che se Milanese perde, diciamo, e quindi raggiunge le patrie galere, il PDL dirà bene, Tremonti è più debole e riprendiamo la nostra sovranità fino ad ora contenuta da un ministro dell'economia troppo forte, troppo potente, troppo ligio ai dettami europei. Se invece Milanese resta fuori, diranno, ecco una prova di compattezza, non ci sono gli elementi e quindi un ulteriore elemento. Una conta, mettiamola così, una conta nel vero senso della parola. Un ulteriore elemento di rafforzamento dell'attuale governo che peraltro sta in piedi perché non ha alternative. Perché la vera notizia in Italia, io dico sempre che se arrivasse un cronista da Marte a descrivere la situazione, la vera notizia non è tanto il centrodestra che si allarga, che è naturale, è ovvio, ma è il centrosinistra che non esiste, non ha una leadership, non ha un programma, non ha la forza per buttare giù un centrodestra in grandissima difficoltà, fortemente destabilizzato. Ed è quello che è apparso anche in questi giorni comunque dagli incontri che Napolitano ha fatto ben più di uno al Quirinale. Berlusconi rassicura, è vero anche che dall'altra parte non gli è stata offerta alternativa. Sì. Napolitano, devo dire, con grande saggezza, con grande intelligenza ha sondato tutti i terreni possibili, ma come si dice a Roma non c'è tripe per gatti. E oggi vedremo anche su quali numeri ragioniamo veramente, anche perché appunto il voto segreto potrebbe davvero portarci a delle sorprese. Sarà comunque un episodio secondo me poco rilevante, è già stato anestetizzato. Berlusconi stanotte in questo vertice se ne è uscito con un grande empito riformista, rilancia il suo ruolo e forse appunto da una parte la forza della disperazione, dall'altra la consapevolezza di essere insostituibile in questo momento diventa la leva sulla quale egli continuerà a governare in Italia. Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, grazie, buona giornata. Buongiorno. Alessandro Milan, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cominciano un po' a prenderci in giro per questa palla di vetro che proviamo ad usare al mattino, però noi i temi proviamo un po' ad anticiparli, se non altro per dare istruzioni per l'uso. Anticipiamo i risultati di ieri di calcio, se vuoi. Questo è un po' difficile. C'è da dire che se non altro ieri, ahimè, siamo stati tristi profeti parlando di Lampedusa. Dai giornali oggi che ci regali? Ma oggi c'è molta politica, come avete detto, c'è il voto di Milanese, c'è il vertice che c'è stato ieri, anche il faccia a faccia Berlusconi-Napolitano. Tra l'altro Berlusconi ha fatto la battuta del giorno, perché quando gli hanno detto ma allora dimissioni, lui ha detto no, Napolitano non vuole fare passi indietro. L'abbiamo appena detto, d'altra parte non è colpa sua, insomma. E quindi insomma tanta politica soprattutto sui giornali di oggi. Grazie ad Alessandro Milan, la rassegna stampa e poi 24 mattino con tutti gli approfondimenti. Noi invece ci fermiamo qui perché sono le 6:51, c'è il Gazzettino del Risorgimento, Alessandro Longoni e Peter Bescapè in regia, la redazione di GR24 già al lavoro, noi ci risentiamo tra pochissimo, ancora una buona giornata da Anna Migliorati.